Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Agustin era accanto a Robert Jordan. «Vuoi che ti spari, inglese?» chiese piegandosi su di lui. «Quieres? È una cosa da niente». «No hace falta», disse Robert Jordan. «Va via, io sto molto bene qui». «Me cago in la leche che mi han dado», disse Agustin. Adesso era sul cavallo, ma non aveva voglia di andarsene. Si piegò maggiormente verso l'albero dove era appoggiato Robert Jordan. «Va pure, viejo», gli disse Robert Jordan. «In guerra accadono molte cose di questo genere». «Che puta es la guerra», disse Agustin. «La guerra è una gran porcheria». «Sì, uomo, sì, ma vattene». «Salud, ingles», disse Agustin, chiudendo il pugno destro. «Salud», disse Robert Jordan. «Ma vattene, ombre». Agustin fece girare il cavallo e abbassò il pugno destro come per imprecare di nuovo col gesto, e cominciò la salita. Tutti gli altri erano spariti già da un pezzo. Si voltò nel punto in cui la radura spariva negli alberi e agitò il pugno. Robert Jordan salutò e poi anche Agustin sparì. Si sentiva ora vuoto e prosciugato ed esausto per tutto quello che era accaduto e per la separazione degli altri, e aveva in bocca un sapore di bile. Ora finalmente non c'erano più problemi. Comunque fossero andate le cose e comunque potessero ancora andare, per lui ormai non c'era più alcun problema. Ora se n'erano andati tutti e lui era solo con la schiena contro un albero. Guardò giù per la china verde, vide il cavallo grigio nel punto dove Agustin l'aveva freddato e più giù l'altro pendio fino alla strada e dietro la collina boscosa. Poi guardò il ponte e oltre il ponte e osservò il traffico sul ponte e sulla strada. Ora vedeva i camion in una lunga fila nella parte inferiore della strada. Li distingueva grigi attraverso gli alberi, poi guardò indietro verso il tratto di strada che scendeva dalla collina. «Arriveranno presto», pensò. «Nessuno potrebbe avere cura di Maria meglio di Pilar, questo lo sai. C'è troppo poco tempo e l'hai appena mandata via. Ognuno fa quello che può e tu non puoi fare niente per te stesso. Ma forse puoi fare qualcosa per un altro. Io e Maria abbiamo avuto tutta la nostra felicità in 4 giorni. Nemmeno 4 giorni. Ora faresti meglio a stenderti. Faresti meglio a trovare una posizione in cui tu possa essere utile, invece di startene lì appoggiato a quell'albero come un vagabondo». Guardò di nuovo giù per la collina e pensò: «Me ne vado malvolentieri. Mi secca molto di andarmene e spero di aver fatto qualcosa di buono. Ovvero mi ci sono sforzato con tutta la capacità che avevo». «Che ho, vuoi dire, eh? Va bene, che ho. Sarà ora quasi un anno che combatto per le mie convenzioni. Se vinceremo qui, vinceremo dappertutto. Il mondo è un posto magnifico e vale la pena di combattere per esso. E a me secca molto di lasciarlo. E tu sei stato molto fortunato di aver avuto una vita così bella. Hai avuto una vita bella quasi come quella di tuo nonno, sebbene non tanto lunga. Questi ultimi giorni hai avuto una vita come non potevi averla migliore. Vorresti lamentarti ora, dopo aver avuto tanta fortuna? Vorrei che ci fosse un modo di trasmettere a qualcuno quello che ho imparato, però. Cristo, verso la fine stavo imparando molto in fretta». Thank you. Robert Jordan si ricordò che aveva la fiaschetta nella tasca posteriore dei calzoni e pensò: «Ora berrò un buon sorso dell'ammazza giganti e poi proverò a voltarmi». Ma non trovò la fiaschetta al suo posto. Si sentì allora molto più solo perché sapeva che non avrebbe avuto nemmeno questo. «Forse ci contavo. Credi che Pablo l'abbia presa? Non fare lo stupido. Devi averla perduta al ponte, eh? Su, su ora, Jordan. Voltati». Si afferrò con le due mani la gamba sinistra e la tirò forte, tirando verso il piede mentre si buttava giù accanto all'albero al quale aveva appoggiato la schiena. Poi, giacendo supino e tirando forte sulla gamba, in modo che l'estremità spezzata dell'osso non potesse sollevarsi e tagliare la coscia, si girò lentamente sulla schiena finché non voltò la nuca dal lato dove la collina scendeva. Poi, sostenendo ancora con tutte e due le mani la gamba rotta rivolta verso la salita, puntò la pianta del piede destro contro la caviglia del piede sinistro mentre si girava tutto coperto di sudore sul petto. Si appoggiò quindi sui gomiti, allungò la gamba sinistra dietro di sé con le mani, diede un'ultima spinta faticosa col piede destro e raggiunse la posizione desiderata. Si tastò con le dita la coscia sinistra e constatò che tutto era a posto. L'estremità dell'osso non aveva forato la pelle e adesso si affondava bene nel muscolo. «Il nervo principale deve essere completamente spappolato quando quel maledetto cavallo mi è caduto addosso. Però non sento proprio nessun dolore, tranne facendo certi movimenti, come poco fa, quando l'osso si sposta e va a toccare quell'altro. Vedi? Ecco. Vedi come sei fortunato. Dopotutto non avevi bisogno dell'ammazza giganti». Tese la mano verso il fucile automatico, ne tolse il caricatore, tirò fuori dalla tasca un altro caricatore pieno, aprì l'otturatore e ispezionò la canna, spinse dentro il caricatore pieno finché non udì scattare la molla e esaminò il versante della collina. «Forse ancora una mezz'ora, ma calma adesso. Vorrei che venissero subito perché la gamba comincia a farmi male. Deve essere perché si sta gonfiando. Tutto andava così bene quando è caduta quella maledetta granata, ma è stata comunque una fortuna che non sia caduta quando ero sotto il ponte. Perché non vengono? Non voglio fare quello che fece mio padre. Se è necessario lo farò, ma preferirei non doverlo fare. È una cosa che disapprovo. Ma non ci pensare, non pensare a niente. Vorrei che quei vigliacchi venissero. Vorrei tanto che venissero». Ora la gamba gli faceva molto male. Il dolore era scoppiato improvvisamente quando era apparso il gonfiore dopo che si era voltato. «E se lo facessi adesso? Sì, sì, non credo di essere molto bravo a sopportare il dolore». Non ti stai comportando molto bene, Jordan, pensò. Niente affatto bene. E chi è capace di comportarsi molto bene in un momento simile? Non lo so, e non mi importa di saperlo ora. Ma tu non vali niente, sì, proprio, non vali niente, niente, niente. Secondo me sarebbe proprio il momento di farlo. Non credi? No, no, perché c'è qualche cosa che puoi fare ancora. Poiché sai che cosa, hai il dovere di farlo. Finché sarai capace di ricordartene, hai il dovere di aspettare. Su, su, che vengano ora, che vengano, che vengano. E pensa agli altri che sono lontani. Ora stanno attraversando il bosco, poi guaderanno un torrente, poi galopperanno nell'erica, poi si arrampicheranno sul versante. Pensa che stasera saranno al sicuro. Ah, pensa che viaggeranno tutta la notte, pensa che domani si troveranno un altro nascondiglio, pensa a loro, ma pensa a loro, per Dio, questo è tutto quello che posso pensare di loro. Ora, ora, no, no, non posso aspettare più, se aspetterò ancora perderò i sensi, lo so, perché sono stato già 3 volte sul punto di svenire e ho resistito, sono riuscito a resistere, ma non credo che potrò resistere ancora. Ho l'impressione che tu abbia un'emorragia interna nel punto dove il femore rotto ha tagliato tutto intorno, specialmente quando ti sei voltato. Ecco, e così si spiega il gonfiore, ed è perciò che sei così debole e che stai per svenire. Sarebbe proprio il momento di farlo. Ti dico onestamente che sarebbe questo il momento. Ma se tu aspetti e riesci a trattenerli anche un poco, o anche solo ad ammazzare l'ufficiale, potrebbe essere una cosa molto, molto importante. Una piccola cosa, fatta bene però. Va bene, disse. E giacque completamente immobile, cercando di nascondere a se stesso che gli pareva di scivolare fuori da sé, come qualche volta si vede la neve cominciare a muoversi giù per la china di un monte. Disse allora tranquillo: voglio resistere finché verranno. Robert Jordan ebbe fortuna fino all'ultimo, perché proprio allora vide la cavalleria uscire dal bosco e attraversare la strada. Salirono su per la china ed egli vide un soldato fermarsi accanto al cavallo grigio e gridare qualcosa all'ufficiale che si avvicinò. Li vide piegarsi tutti e due e guardare il cavallo grigio. Lo riconoscevano naturalmente. Cavallo e cavaliere erano mancati all'appello dall'alba del giorno prima. Robert Jordan li scorse poi sul versante già molto vicino a lui e vedeva in basso la strada, il ponte e la lunga fila di camion. Era completamente padrone di sé adesso e guardò a lungo tutto. Poi alzò gli occhi al cielo e vide delle grandi nuvole bianche. Appoggiò la palma della mano sugli aghi di pino accanto a sé e toccò la corteccia del tronco di pino che lo riparava. Poi si sistemò più comodamente che poté, con i gomiti puntati sul terreno e la canna del fucile automatico appoggiata al tronco di pino. L'ufficiale, seguendo al trotto le orme dei cavalli di Pablo, sarebbe ora passato a circa 20 metri da Robert Jordan. Sarebbe stato facilissimo per lui a quella distanza. L'ufficiale era il tenente Berrendo. Lui e i suoi uomini erano venuti dalla granja, dove avevano ricevuto l'ordine di accorrere quando era giunta la prima notizia dell'attacco al posto al di sotto del ponte. Erano partiti subito, sforzando le cavalcature, ma avevano dovuto allungare la strada perché il ponte era saltato. Avevano dovuto attraversare la gola molto più in alto e fare un gran giro attraverso il bosco. I loro cavalli erano bagnati e stanchi e trottavano solo a colpi di sperone. Fissando le orme, il tenente Berrendo seguitava a salire, con la sua faccia magra e seria e grave. Il suo fucile automatico era posato di traverso sulla sella ed egli lo reggeva nel cavo del braccio sinistro. Robert Jordan giaceva dietro l'albero, respirando molto leggermente per mantenere ferme le mani. Aspettava che l'ufficiale giungesse nel tratto soleggiato, dove i pini della foresta finivano e cominciava la verde china del prato. Sentiva il cuore battergli contro il terreno coperto d'aghi nella pineta. Io sono di nuovo Fernanda Pivano. Fernanda Pivano, che è stata molto vicina a queste produzioni letterarie, chiamiamole così, a questi straordinari capolavori che Hemingway ha scritto. E Per chi suona la campana è stato, più che il suo capolavoro, è stato il libro che lo ha fatto vivere tutta la vita, perché per qualche misteriosa ragione questo libro si è venduto veramente molto e viene considerato un capolavoro. Si possono fare i nomi di tutti i critici del mondo. In America non c'è stato nessun critico che non abbia in qualche modo parlato di questo libro. Naturalmente qualcuno ha detto che era splendido, qualcuno, gli invidiosi, ha detto non andava bene perché mancava di questo, mancava di quello, mancava un accidente. Questo è stato il più bel libro che sia stato scritto su queste cose. Per esempio, Mark Shorer si è soprattutto preoccupato invece col cambiamento e lo sviluppo dell'argomento dello stile di Hemingway, dall'esperienza violenta stessa alla rivalutazione della violenza. Se i libri precedenti sostengono un contegno disinvolto nelle occasioni di violenza, questo libro sostiene la necessità morale della violenza politica. Mark Shorer non è d'accordo con Edmund Wilson quando dice che Hemingway non aveva persuasione politica, perché secondo lui questo libro, l'atteggiamento individuale, scompare nella realtà politica, nella totalità politica, ma scompare proprio per difendere la dignità, la libertà, la virtù. La dichiarazione di Mark Shorer che Hemingway abbia presentato una realizzazione poetica delle virtù collettive dell'uomo è più convincente di quella di Lionel Trilling, che lo scrittore abbia glorificato l'isolamento dell'io individuale. Il 26 novembre 1941 si era, almeno apparentemente, placata la ostilità di Sinclair Lewis, che era cominciata il 5 agosto 1922 con un articolo su Toronto Star in cui Hemingway attaccava Sinclair Lewis perché non era bravo ad andare a cavallo. Sinclair Lewis aveva risposto lodando il superbo Farewell to Arms di Hemingway nel suo discorso del premio Nobel del 30, ma Hemingway aveva continuato ad attaccare Sinclair Lewis in Clinton, dove aveva dichiarato Sinclair Lewis non è niente, e naturalmente la recensione di Sinclair Lewis era comprensibilmente negativa. L'immagine di Forum de Belles Torts si era ripresentata nel 1946, quando durante la preparazione di Alan in the Stream, Hemingway aveva tentato di fare un altro libro sulla Seconda Guerra Mondiale, che eguagliasse Farewell to Arms e Cross the River and Into the Trees, ma nessuno ha pensato che l'eguaglianza fosse positiva. Senza sorprendere nessuno, di Forum de Belles Torts si è parlato molto durante l'occupazione di Fidel Castro. Alla caduta di Batista, Hemingway aveva fatto un epitafio amaro per il dittatore, dicendo «Così passa il figlio di puttana». E si era rivelato simpatizzante con Fidel Castro. E Fidel Castro aveva detto a Kenneth Steiner, il famosissimo critico teatrale che adorava Hemingway, aveva detto «Abbiamo portato con noi sulle colline Forum de Belles Torts e ci ha insegnato a fare la guerriglia». Fidel Castro non aveva rotto i suoi rapporti diplomatici con gli Stati Uniti fino a gennaio 61, dopo che Hemingway aveva lasciato Cuba in modo definitivo. Forse da questa frase di Fidel Castro è nata la quasi leggenda che i russi usavano il libro per le loro lezioni di guerriglia. E questo è il capolavoro della guerra, dove la guerra è vista in modo diretto, in mezzo al combattimento, più che in mezzo ai sogni non realizzati del tenente Frederick Henry, che ha infatti fatto una pace separata. Questa idea della pace separata è l'idea più poetica, più bella e più umile che è stata mai fatta per dire, descrivere il gesto del disertare la guerra. Qui lui non ha fatto una pace separata e il romanzo è venuto fuori pieno di, naturalmente da parte degli invidiosi, che sono sempre, ci sono sempre nei nostri mestieri, con molte manchevolezze, da parte degli ammiratori, che ci sono sempre nei nostri mestieri, come un libro perfetto su quello che è il dramma della guerra e dell'amore in guerra. L'amore era rappresentato da questa Marta, una bellissima ragazza violentata dai fascisti, e raccolta da Pilar, che era, c'era una specie di grosso pilastro, insomma, che proteggeva questa Marta. Ma a un certo punto lì è arrivato un bellissimo tenente, erano tutti belli a quei tempi gli attori, e qui era niente meno che Gary Cooper, dico, non so se mi spiego. Questo giorno doveva far saltare un ponte. Per far saltare questo ponte, Jordan doveva vivere con questo piccolo gruppo di partigiani, come voi sapete se avete seguito la lettura del libro, e naturalmente Marta si innamora di Jordan, ma Jordan non osa toccarla perché lei era stata violentata dai fascisti, era una bambina quasi. E allora lei trova il coraggio di andare da lui, perché lui dormiva nel sacco a pelo, di andare nel suo sacco a pelo. Questa scena d'amore nel sacco a pelo è una delle scene più famose della letteratura americana, forse anche della vita di questi due attori che, vivendola, devono avere in qualche modo partecipato. Penso, non lo so, ma penso. Però queste sono mie supposizioni pettegole, non hanno nessuna base. Il fatto sta che queste scene e la scena finale di Jordan con questa bomba che lui deve far buttare, deve far esplodere da questo ponte quando arrivano i realisti, ha realizzato le pagine più belle che siano mai state scritte su un'azione di questo genere. Piero Antonutti ha letto Per chi suona la campana di Ernest Hemingway, postfazione di Fernanda Pivano, traduzione di Maria Napolitano Martone, edizioni Mondadori, regia di Anna Antonelli, riduzione di Giovanni Piccioni, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.